Italia in controluce, la politica nel tunnel. Buongiorno a tutti, oggi è il 15 di marzo e si sta non votando alla Camera e al Senato. Innanzitutto c'è stata la prima fumata prevedibile, fumata nera sulla presidenza, stessa cosa accadrà certamente anche alla Camera. Ma oggi parliamo di qualcosa di molto collaterale, ne parliamo con Marco Travaglio, che è un giornalista della carta stampata, un commentatore televisivo, scrittore di libri d'inchiesta, da pochi anni anche narratore del cosiddetto teatro civile, che è un'etichetta ma di fatto è una narrazione. Nei giorni in cui si tenta di formare faticosamente un governo tra PD, Movimento 5 Stelle, si votano, meglio non votano, i presidenti di Camera e Senato, Travaglio è a Milano in questi giorni con il suo ultimo spettacolo, che si chiama È stato la mafia, sulla trattativa tra Stato e mafia, un testo che racconta una delle pagine più buie, più oscure della storia contemporanea del nostro paese. Negli anni in cui la mafia colpiva Palermo, a Capaci, in via D'Amelio nel 92, l'anno dopo in via Fauro a Roma, via De Giorgofili a Firenze, via Palestro a Milano, contro le chiese del Velabro e Laterano a Roma, la tentata strage del 31 ottobre del 93, insomma, pagine che hanno anche coinvolto il Presidente della Repubblica, Giorgio Napolitano. Lo saluto, Marco Travaglio, buon pomeriggio Marco. Buongiorno a te e a tutti gli ascoltatori. Allora, intanto vi ricordo 349-238-6666, che sono i vostri sms. Oggi parliamo di trattativa Stato-mafia. Ecco, dicevo, tu sei un giornalista e uno scrittore, poi sei passato al teatro, al racconto, alla narrazione sul palco. Per quale motivo? Ma intanto perché, insomma, queste storie lunghe, non tanto complicate, ma lunghe, perché durano 20 anni. Se le racconti in un libro, chi lo legge ci impiega qualche giorno, qualche settimana, e quindi poi arrivato alla fine magari non si ricorda più quello che è successo all'inizio. Se stai in televisione, i tempi televisivi sono micidiali, perché dopo 6-7 minuti cala l'attenzione. Sui giornali ne puoi raccontare un pezzo alla volta, e invece avere un luogo dove la gente viene ad ascoltarti appositamente e hai un paio d'ore anche abbondanti per raccontare tutta la storia, sia pure in sintesi, diciamo tutto il film dell'orrore dal primo all'ultimo fotogramma in una stessa serata, quando uno si alza e va via ne sa un po' di più e soprattutto ha avuto il quadro d'insieme, che è quello che è importante in questa storia, che è tutta concatenata e ha una sua logica perversa, ma ha una sua logica, e quindi non si può perdere nessuno dei fotogrammi, e vanno visti tutti insieme in fila. Quindi il teatro è il posto ideale. Ecco, poiché la politica non è riuscita a dare spiegazioni non solo per queste vicende, cioè per le stragi di mafia, ma anche per le stragi diciamo la Piazza Fontana, Brescia, Bologna e su molte altre vicende italiane, e alla fine ci hanno pensato i narratori hanno sostituito la pochezza della politica, insomma. Ma tu, Daniele, conosci bene, perché racconti da anni queste storie, e quindi sai bene che i misteri delle stragi degli anni 60 e 70 e fino all'80 diciamo hanno comunque avuto un esito giudiziario nel quale si è stabilito almeno erano terroristi di destra, erano terroristi di sinistra, sono stati coperti dai servizi più o meno deviati, poi sulle deviazioni, sul concetto di deviazione. Sono assolutamente d'accordo, non esiste la deviazione. Bisogna intendersi. Qui invece, se possibile, è una storia ancora più grave, perché è chiaro che gli ordini sono partiti dalle istituzioni non deviate, non spurie, ma dalle istituzioni, diciamo, regolari. Nel senso che noi abbiamo avuto dei governi che hanno fatto una scelta politica, secondo me criminale, ma uno può anche decidere che per la Realpolitik si può mettere a negoziare con i mafiosi che stanno mettendo a ferro a fuoco l'Italia dopo che hanno appena ammazzato Falcone. Gli si può anche segnalare che quel borsellino disturbava la trattativa e quindi era meglio eliminarlo, cosa che poi è stata fatta, autorizzando anche i mafiosi a pensare che la politica delle stragi pagava e che quindi bisognava dare qualche altro colpo sacrificando la vita di qualche decina di cittadini innocenti che passavano da via Palestro a Milano o da via dei Georgofili a Firenze o davano un'occhiata alle basiliche di Roma, si può anche decidere che tutto questo appartiene alla ragion di Stato. Però queste sono decisioni che non sono mai state comunicate e nemmeno spiegate ai cittadini italiani e soprattutto per 20 anni noi abbiamo assistito a un sistematico smantellamento dei principali strumenti di lotta alla mafia da parte di governi di destra e anche di sinistra, che ci sono state sempre vendute come frutto del garantismo, mentre invece erano il frutto di quel patto stipulato proprio alla nascita della Seconda Repubblica. Quindi noi facciamo i giornalisti, non ci occupiamo di reati, a me non interessa nemmeno se i carabinieri e i ministri che li hanno mandati a trattare con Vito Ciancimino hanno commesso il reato di violenza o minaccia allo Stato italiano. E se i ministri quando hanno testimoniato hanno commesso il reato di falsa testimonianza. A me interessa che queste cose sono accadute e mi meraviglia che troppi nostri colleghi, invece di parlare chiamando le cose con il loro nome, continuino a trastullarsi intorno alla presunta trattativa, alla cosiddetta trattativa, quando se c'è una cosa assolutamente certa è che quella trattativa c'è stata, e non solo perché così hanno stabilito sentenze ormai definitive, ma anche perché i protagonisti della trattativa la chiamano trattativa, la chiama trattativa il generale Mori, la chiama trattativa il figlio di Ciancimino, la chiamano trattativa i mafiosi che stavano dall'altra parte. Quindi i fatti li possiamo raccontare senza aspettare l'esito del processo. Il processo non deve stabilire se sono avvenuti quei fatti, deve stabilire soltanto se quelle persone imputate hanno commesso quel tipo di reato, punto. Ecco, tu anche sulle pagine del Fatto Quotidiano, ma direi più in generale, credo anche in questo spettacolo, parli del ruolo del Presidente della Repubblica Giorgio Napolitano. Alcuni ascoltatori, per esempio Andrea da Bologna, dice cosa vergognosa l'insabbiamento delle intercettazioni del Presidente della Repubblica, e altri ci spiegano o ci chiedono, come Giuseppe, a chi avrebbe giovato questa trattativa. Sono due domande. Partiamo da Napolitano, perché questi sono anche giorni dove il Presidente della Repubblica è molto indaffarato, sta lavorando per costruire, cercare di mediare sulle grandi questioni della politica, ma le sue vicende, o comunque le vicende che lo hanno sfiorato con le intercettazioni, diciamo ancora non sono state chiarite fino in fondo. Questa è una domanda. Infatti io, l'ultimo quadro del recital che faccio al Dal Verme stasera e domani si intitola Romanzo Quirinale, ed è la storia di quelle telefonate che Mancino, ex ministro dell'interno, ex tante cose, ma soprattutto privato cittadino da diversi anni, politico in pensione, fa al Quirinale per chiedere protezione al Quirinale medesimo, ritenendosi perseguitato dalla procura di Palermo. Sono telefonate che andrebbero respinte al mittente, cioè penso che qualunque statista degno di questo nome, quando un privato cittadino, per quanto ex potente, chiede di interferire in un'indagine in corso, trova nelle istituzioni la porta chiusa e il telefono staccato, e invece purtroppo, come diceva il Manzoni, la sventurata rispose, quindi abbiamo nero su bianco tutte le telefonate intercettate sul telefono di Mancino con il consigliere giuridico del capo dello Stato, Loris D'Ambrosio, che purtroppo si attiva e dice di farlo a nome di Napolitano presso il procuratore Grasso, che per fortuna respinge quelle manovre, presso il procuratore generale della Cassazione, che purtroppo non le respinge e si dà da fare a sua volta, addirittura chiedendo a Grasso di avocare l'inchiesta alla procura di Palermo, e abbiamo poi esternazioni varie contro la procura di Palermo, che viene delegittimata nel momento più delicato di questa indagine. È una questione che dovrebbe essere conosciuta. Direi che l'esistenza di quelle quattro telefonate intercettate sul telefono di Mancino, indagato per falsa testimonianza, in cui c'è la voce di Napolitano, sarebbero anche la cosa meno interessante se ci fossero state fatte conoscere. E invece sul segreto imposto su quelle telefonate evidentemente sono nati molti sospetti e credo anche qualche ricatto, proprio perché a un certo punto si è affermato che non si deve sapere quello che Napolitano diceva a Mancino, ed è stupefacente, perché se Napolitano dice che non c'è niente da nascondere, sarebbe stato suo dovere e anche sua convenienza informare immediatamente gli italiani di che cosa aveva parlato con Mancino, perché non puoi parlare di affari di Stato né tantomeno di vicende processuali con un privato cittadino, e né puoi pensare che se parli con un privato cittadino degli affari suoi questo sia coperto dal segreto di Stato o da altri tipi di segreto che non sono previsti dalla nostra Costituzione. Quindi purtroppo sono stati commessi una catena di abusi di potere che avevano lo scopo di sopire e troncare un'indagine che stava arrivando al punto fondamentale, al buco nero fondamentale dal quale è nata la Seconda Repubblica, e che evidentemente si è deciso di cercare di stoppare, indagine che invece per fortuna ha avuto proprio qualche giorno fa una consacrazione, l'unica consacrazione che può avere un'indagine, cioè il vaglio del giudice per le indagini preliminari, che ha rinviato a giudizio tutti gli imputati, a riprova del fatto che insomma un'indagine proprio campata in aria non lo era, perché altrimenti non sarebbe finita in quel modo e non si farebbe adesso il processo. Bene, grazie a Marco Travaglio, che ricordo è a Milano in questi giorni al Teatro Dal Verme. Abbiamo parlato con lui di trattativa Stato-mafia e come parliamo con Marco Travaglio, qui a Radio 24 ospitiamo tutte le opinioni, perché tutte le opinioni devono avere la loro. In questo modo io rispondo alle tantissime, un po' stupide, illazioni che vengono fatte su questi SMS. Meno male che l'Italia è grande, è fatta anche di persone intelligenti che pensano anche appunto in grande. Io vi ricordo che Italia in controluce ritorna lunedì come sempre alle 13.30. Infatti, mentre accadono e mentre accade questa giornata complicata di votazioni nulle alla Camera e al Senato, ritorneremo naturalmente la prossima settimana a raccontarvi ancora la politica. Ricordo Facebook, pagina gruppo, radio24.it, controluce @radio24.it.